chiedersi senza pietà, senza chiedersi perché, come il falco e la rugiada, e non dubitare mai. Non avere alcuna proprietà, rinnegare l'anima, come i sassi e i fili d'erba, non avere identità. Ti salgono sul treno e non ritornano mai più, non sono come noi, perduti antichi eroi, noi due che al binario ci diciamo addio. Spiegare che filosofo sarei.